23. Quando tremante affaccio, testa su foglio, tremante quando affaccio, testa tremante su foglio, quando affaccio, o ancora testa quando tremante, non è più testa né foglio, mente nel suo precipuo spazio, ma gelo fassi di quel foglio, testa, ustione, quella testa foglio. Quando tremante affaccio, testa su foglio, tremante quando affaccio, testa tremante su foglio, quando affaccio ancora, testa quando tremante, non è più testa né foglio, mente nel suo precipuo spazio, ma gelo fassi di quel foglio testa, ustione quella testa foglio.